Il punto di Stefano Folli. Al di là del merito economico della vicenda Telecom, restano vari punti politici. In fondo non è privo di significato che un'azienda formalmente privata, appunto la Telecom, sia finita nell'orbita di un'azienda pubblica, la spagnola Telefonica. Ci muoviamo quindi, è il meno che si possa dire, lungo un confine sottile e insidioso. Ed è bene che il governo sia chiaro, poiché si tratta di questioni che coinvolgono, qui ha ragione Letta, l'intero assetto delle telecomunicazioni in Europa. Il che può offrire vantaggi, certo, ma anche pesanti svantaggi ai paesi più deboli, e ci sono pochi dubbi che noi siamo sul versante dei paesi deboli. Tanto è vero che ci troviamo quasi sempre dalla parte di quelli che vendono e non di quelli che comprano. Vendiamo pezzi strategici e chi compra sono sì altri europei, ma alla fine è una magra consolazione perché viene da domandarsi quale sarà il nostro posto in questa Europa.